Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre affrontiamo sia oggi che nell'appuntamento fra due giorni il tema delle vacanze con due vicende diverse. La prima è di strettissima attualità perché parliamo di vacanze in Grecia con tutti gli annessi e i connessi. Ben ritrovato al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. La Grecia è da giorni sulle bocche di tutti, sulle prime pagine dei giornali, anche sulla bocca e nelle tasche di coloro che avrebbero voluto, vorrebbero passare le vacanze in una delle località splendide appunto che la Grecia offre. Le difficoltà ovviamente sono molte, a cominciare dalla questione dei pagamenti. Molti si sono rivolti anche a voi, vero Carlo? Sì, ricordiamo amico come la Grecia è una meta molto gettonata, soprattutto d'estate, e come l'Adico da qualche anno, in questo periodo soprattutto, mette a disposizione per tutto l'arco della stagione uno specifico sportello denominato Vacanza Informata. Uno sportello che serve per dare consigli, sia prima come adesso che durante, per coloro che si trovano in Grecia e nel caso e dopo, per coloro che magari hanno trovato delle vicissitudini da denunciare durante il periodo vacanziero, comunque ricordiamo in qualsiasi posto dove sono, dove vanno, e che normalmente in questo periodo si stanno rivolgendo all'Adico in maniera massiccia proprio per richiedere e ricevere anche consigli su come organizzarsi in previsione di questo viaggio. Le difficoltà le hanno i greci, come sappiamo, con la limitazione estrema di prelievo al bancomat. Le difficoltà possono averle anche, anzi certamente le hanno già avute anche i turisti. Per quanto riguarda i pagamenti, quali sono le difficoltà maggiori? Allora, innanzitutto ricordiamo, amico, che a prescindere da quella che è la situazione in questo momento che in Grecia si sta verificando, il problema più grosso è che non c'è disponibilità di contante, per cui se fino ad oggi uno dei consigli principi che anche noi stessi come Adico dicevamo sempre o davamo per chi doveva andare all'estero era quello di portarsi meno contanti e cercare di utilizzare quello che sono i canali un po' della Visa, del Mastercard o dei bancomat o delle carte elettroniche o delle prepagate e quant'altro, oggi purtroppo questo consiglio non può essere tenuto conto in quanto non c'è disponibilità di contante. E ricordiamoci che questa cosa può creare notevoli difficoltà soprattutto per chi deve pagare nei bar, nei ristoranti, nei taxi, ma anche per chi ha bisogno di acquistare dei farmaci e soprattutto per chi magari deve anche, che ne so, pagare delle escursioni, che magari ha deciso di concedersi degli extra rispetto a quelli che sono dei pacchetti. E quindi pensiamo chi magari deve partire, che in questo caso deve correre il rischio di portarsi con sé molto contante, ma di chi si sta anche trovando e che in certo punto si trova, usiamo quasi dire, imbavagliati proprio per effetto di questa situazione di cui tutti non si potevano certamente aspettare, la chiusura delle banche o i prelievi centellinati dei contanti agli sportelli. Paradosso di questa situazione, i greci hanno bisogno disperato di soldi, di contanti, appunto poi l'accordo è stato fatto ma le persone, i soldi in mano ancora non arrivano, chi li potrebbe portare? Cioè gli stranieri magari faticano, mi viene in mente un caso molto semplice, no? Magari tu prelevi qui prima di partire per la Grecia, ti danno, che ne so, banconote da 50 o da 100, ma magari in Grecia non hanno il resto da darti, perché può essere anche questo che succede. Ma è chiaro che la Grecia è un paese che per molte cose rassomiglia anche l'Italia, purtroppo quando si parla di rassomiglianze bisogna anche parlare di chi fa anche il furbetto. Ricordiamoci che in una situazione di grossa difficoltà viaggiare con molto contante non è mai indicato, ma dobbiamo anche tenere conto che possono esistere questi aspetti qua di chi magari non ha soldi per darti il resto, ma anche e soprattutto di chi ha bisogno di potrebbe aver bisogno di beni di prima necessità e fatica a doverli comprare. Certamente mettendosi nei panni della Grecia dobbiamo dire che questo non può essere un momento di vero contrasto all'evasione, perché sappiamo che quando si viaggia con il contante si aprono tutta una serie di scenari paralleli che credo non faccia bene in questo momento alla loro economia. Certo è una situazione che in queste ore si può sbloccare solamente per effetto dell'accordo, ma che certamente per effetto di quelli che sono anche gli impegni che i governi e le banche si stanno o si sono appena delineati o definiti in queste ore. Tra coloro che si sono rivolti allo sportello vacanza informata dell'Adico, quali sono state le richieste di informazioni maggiori e i problemi maggiori che sono stati sollevati? Beh, la maggior parte dei casi riguardano proprio persone che devono partire e volevano essere tranquilli, perché poi dobbiamo tener conto anche quelle che sono le aree più calde rispetto ad altre, magari le isole più turistiche subiscono meno l'influenza di certi movimenti di protesta rispetto a quelle che possono essere delle zone centrali o intorno alla capitale, che magari in questo momento non è tanto consigliabile frequentare. E poi dobbiamo tener conto non solo appunto quelle che possono essere tipologie di assicurazioni, che magari in questo caso sono più difficili da definire, ma ecco, il fatto di dover viaggiare in contante e di non poter far conto sui circuiti elettronici, certamente noi raccomandiamo molta prudenza, perché non è mai bene sapere, insomma, dà un po' l'impressione di essere un po' come delle galline da spennare, e certamente sa camminare per le città o frequentare dei posti, rischiare magari di essere saccheggiati in macchina o rispetto a una camera d'albergo, a prescindere da quelle che poi sono, potrebbero essere le responsabilità, certamente in questo momento possiamo trovarci a essere un'attrazione per molti malviventi o furbetti. Cosa consigliare allora? Cioè, voi cosa dite? Meglio andare in Grecia o meglio non andarci, o andarci con quali precauzioni? Allora, innanzitutto, Mirko, bisogna dire che oltre a quelle che sono le zone da evitare, come abbiamo detto, quelle più calde, non rimane molti consigli se non quello di dotarsi dei beni di prima necessità come farmaci o medicinali, facendo conto a quelle che possono essere le difficoltà nel momento dell'imbarco. Però l'alternativa purtroppo è quella di doversi dotare di contante, perché in questo momento solamente il contante ti può rendere sicuro. Poi tutto il resto possono essere dei consigli accessori, ma che certamente, cioè, può essere che nei prossimi giorni tutto torna alla normalità, ma che in questo momento forse le prudenze sono i consigli, il miglior consiglio che possiamo dare. Ecco, tra l'altro non dimentichiamo che tra le cose scritte negli accordi appunto a livello europeo c'è anche l'aumento dell'IVA, o meglio l'adeguamento dell'aliquota IVA per le zone turistiche, appunto per le isole, che adesso godevano di un regime agevolato, mi pare intorno al 6,5% rispetto al 21-22%. Ma su questo ci aggiorneremo nei prossimi giorni, aspettando che cosa deciderà il Parlamento greco. Noi tra due giorni parliamo ancora di vacanze, ma stavolta ci fermeremo in Italia per un disagio legato a un cofanetto. Intanto grazie al presidente Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.